fare ciò. A me pare che ci furono in ciavuccia. No, se che appena arrivato. A già seggio per Graziano. Sto appena rientrando. Davvero, correndo in bicicletta. No. Hanno accompagnato a Menebudia al campo. Ah, chiari, pure arrivare. No, ieri non c'era in tutta la sera, non c'era. Ero fuori. Ho capito. Infatti, sei andato arrivare, un po' strano. Graziano. Sì, sì, no, che è passato di nuovo, vedi, si bicicletta a Bellarese con un casco. Si sì, fa via tu l'appeggiante, sì, in capo, fa via. Sì, solo l'appeggiante rimanca. Sì, vabbè, buffolese, grazie, va. La battuta faccio, sì. Tanto mi dirà che cosa. Sei un impegnato, e chi dà ragione. No, ma che io pure c'è stato poco, ma che io subito. Quando ieri? Anche avanti ieri. Ma che secondo me si sta intendendo? Se pare secondo me che è da abbassata. No, oh, già è entrata le mani. Sì. Ma è stato un po' che ha stancato. Infatti abbiamo fatto un paio di chiamate, quello non ha risposto. Si ha chiamato pure Graziano. Di luogo, al settore di affessi la bufera. No, io sono rientrato tardi, no. A me pare che i 9 macco 4 che hanno rientrato. Quindi, non si è fatti accendere, ci sono per nessuno. Ah, va, è un po' da buia, si staccate questa, la parte di giù. Che hai sui fissi d'acqua. Allora avevo due battuti lì, un coso con Luca, quella Luca del Monte, quella Luca Frippero, Graziano, io, Claudio, ma se l'hai ritirata allora gli staccati il muro, e la gli farà sentire, gli visto che era Graziano, fa per esempio con Luca. Questo è pazzesco però abbiamo abbassato il volume. No, anche io sono tutti e due. Io ieri sono rientrato tardi, ma stasera sono rientrato poco fa. Quindi, purtroppo il dovere. C'è la prima cosa è quello lì, che mancherebbe altro. Ma ci faccio il giraccio a sto cazzo di Napoli, da chi giù chi si già passa un fare. Ma chi? Ah, chi giù di via Napoli, Chi si già passa un fare, Parabicci. Ah, quello di via Napoli. Ti devo accompagnare sempre anche su un mini buggy. Hai capito? WhatsApp, a meno che non sia nato a voi per invece. Nuda in Sassari, insomma. Ah, se li prendi, se la sta dalle stelle, tutti i cazzi, uno mi dà l'altro. Pari invece, sì. Non so che pari invece si è stato tutto. A ci stare, ci vediamo un altro momento. Tu ci raggiungi. Dopo le feste conviene andare. Dopo le feste si abbassano i ribrigi. Sarà che sto carica. Laggiù fa tutte e quattro sto andando. Prima sono cazzato io vicino via a Oropì. Da poi ho andato vicino via del Porto Torres. Da vicino via del Porto Torres, la torre via Napoli. E insomma, andare in giro. Ma quello di via Pugino non ci sei andato? No, quello di via Pugino no. Ma lo so, questa è la farmacia, so, c'è una farmacia, una volta mi sono passato qui, da un mese, mi pare che l'hanno passato. Quindi era una bicicletta 1580. Ma in genere sono quasi tutte così che vengono queste biciclette. Costano un bel costano. Costa di la bicicletta che uno scooter, capito? Adesso stanno facendo buone con prezzi a Riccelli. A fratelli il baghizzo. Costano sulle 1500, non che ti costano i 2000 e che cosa. Aspetta, chiamiamo Bacchi. Bacchi! Bacchi, Giuseppe, Straufera. Gio Mario, costano oggigiorno, costano. Sei truffo, sei truffo. Una sola non aveva, l'altra tutti i mountain bike, i valori, ma una sola fino a via a batteria, 1850, ecco, va bene, va bene, buongiorno, mi sono andato, bella la bella, adesso è bella, forse è l'unica che ha giudice tutti i miei girati della chissà, ma lì ci sono macchi 1800, babà, oh i so, fili di vita, e oh, ma la bicicletta non sai sentire mai. Ce la vuoi buona, devi spendere, purtroppo, va va, che bisogna invece si sono alzati con i brici buoni. Pagata a Bacchi 850, aspetta, e quanto c'ha di autonomia, che 5 metri fa con la carica? No, 35, aveva compreso male, sono bene, sono bene, certo, sono bene. Siete sopramodulati tutti e due. Come sempre. Ok, signor Bacchi, buonasera. Buonasera, signor Bacchiglio, ben estratto. Ho detto che costano, io ho visto, costa più la bicicletta che lo scooter, è così, Sali tranquillo, vi lavate a burro. la scarica, scendi e sali, abbassa. Ah, così. Bisogna anche vedere anche il peso della persona, va. È tutto calcolato, ecco. Comunque ormai ne vanno bene, dai, ya. Allora girisce parecchio, no? Ma... penso che anche il consumo anche bisogna calcolare il consumo e fa male a peso anche, no? Ma è così, va? Beh, gli pedali non camminano, perché vado a camminare gli pedali, ma è così che vedo un po' e risparmi anche energia. Sai che tu pensi che stamattina che faccio io, che la stai facendo un pacchè a piombo la mia, no? Ma sai, pensa, io la batteria che era tutta la bicicletta, ma... Ma dove c'hai? C'è dietro, sul bagagliaio oppure come? Che a piombo, la tua magari c'ha l'inchio sarà, ma la mia a piombo, cazzo, è un bel pesa, più della bicicletta, più un peso mio, quattro volte un peso, 75, è più la mattia, quasi quasi non cade dalla bicicletta. E infatti, qui ci sono più leggeri, dai. Quelli sono più leggeri, ma quelli a piombo sono un po' più pesanti. Avanti, certo! Annoiando, ti stai? Sì, annoiando. Ho una bella giornata, mi si capa il bello. Ehi, cosa vuoi fare? La mia pesa, ho pesa manco un chilo. Ma la tua, per forza. E tu la dici, ma curri, ma chi se la figlia ma currino? E chi se la figlia ma per la campagna di vino, ma chi? Tua se la pedali non cadina nulla, però mi sto. Oh, devi pedalare poi forza, devi pedalare poi forza, che se no non cammini, non cammini, no. Sono più cucchi da più pedali e più cammini. Magari farata, si vede farata la camminare la giura. Se la dire più piano, magari la cammina però dai. Ma è la strada che lo pedali sono canina. Metti la batteria. Già ti aiuta, magari ti aiuta un bel pacchi della giuiccia che cazzo, è leggera leggera, capito? In assalto, cazzo. Invece si lo prende la corrente, è pesante. Cazzo, la pedale è pesante. E la società è pesa vero. O pacchi. E così pur nero mio, pur nero mio computer è fuori. Ah, io ci ci metto quella metà, ci metto pignoncino piccolo e te la posso pure imparare davvero. In alzata di poco che da manna ero pignoncino maduro. Buonasera, che stessi? Anche subito, buonasera. Buonasera, ciao Maria, ciao Bastisio, avanti Bastisio. Sì, sto ascoltando, non sentivo il settimo, sei mezzo a correre, comunque piano ti riesco a tirarti fuori. Bene, avanti Gio Maria. Ok, buonasera Maria, per risentito. Sei fino a parlare, sì, che c'è la voce, quando tu dici a sententi, ma già sarà così, Maria. Gio Maria, lavoro in corso, siamo a lavoro in corso, ieri mi ha fatto, dove facevo le cose, abbiamo fatto un bidone, sia uno sia l'altro. Ma sto terminando, Giovanni, sto terminando, ho fatto il muretto d'ingresso, sono tagliato la siesta e sto terminando. E domenica ho fatto un altro lavoretto, l'amico Bacchino ha pensato una questione, ho risolto tutto e adesso domani viene a persona e finiamo di fare il lavoretto, poi c'è finire domani, però ho già risolto, la roba più grossa già non ho tolto a mezzettini, tutto qua. Stai facendo? Bene, avanti, sto vicino. Cammina a finire che sennò i nomi si tracchiamo. Lo so, ma quando stai lavorando, una cosa all'altra, poi temi, ti metti a parlare, ti bevi un caffè, una cosa all'altra, si fa tardi, quando lo accendo non si vede nessuno. Capito? Dai, mi stavo finendo di... Ho attaccato un po' di luci, per dire le porte, stavo collegando i cavettini. Sono attaccati, funziona tutto e insomma, ho acceso e ce l'ho per voi. State facendo, Otto, state facendo, guarda se ti fermi, avanti, c'è un bacchizio. C'è un bacchizio, non so se stai rimodulando, perché se c'ho correnne, c'ho un po' di correnne che ti copre, non lo so. Io stamattina... Quando fa tagliare il 250 dei capelli fa una cosa all'altra, la tarda, il soldato mi ha chiamato. Però è una questione, guardate, un po' di rotazione ci avevo. Adesso me ne lascio in macchina, domani se faccio fresco, ti chiamo, vuol dire così via. Bene, avanti, Giovanni. Se da fratto, la prima cosa è il dovere. E quella è la prima cosa, Maria, fai bene. A fare piano piano. Tanto che sta lavorando tutto il giorno, poi e cazzo, è la sera, adesso magari inverno, quando esce magari è piattaggio, non penso che puoi fare niente, no? Ma tu sabbi la domenica e a travaglio, ma te sei in casa, no? E allora, perché domenica stavo lavorando? Domenica mattina stavo lavorando lo stesso, perché mi sono fatto testare una questione, Battisio e domenica ho fatto tutti i cigari a Giovatti, è un burro. Tu dove vai? Non hai finito domani, perché ho fatto il muretto d'ingresso, ho tagliato la siepe, e ho fatto il muretto anche l'ingresso, una bocchetti a tre file, dunque mi ho fatto tutto l'impianto delle luci esterne di nuovo, col tubo collegato, pozzetti, collegato, mammutu, mi ho cambiato tutte le interruzioni che prima era a interruzione, la luce, adesso ho messo la luce, capito? È un casotto di cavi, carretti invece, con due figli si è a posto. E mi ha accomodato giù, su la mia figlia, su da me a piano di sopra, più davanti al cancello. E domani dovrei colarmi un po' di coprimuro, a parte i paletti, così ci metto le bucce e ho terminato. La roba grossa l'ho già fatta. Non la vista la ciabuliera, era un dettaglio, capito? A me adesso si vede che c'è già l'ingresso, con calma, se proprio non le dolfino, ha trovato il grosso nel blocchetto, con calma le dolfino così finisco tutto, adesso non conviene perché intanto c'è umido, non asciuga, mi fa perdere sempre e basta. lo giro, abbiamo più tempo. Bene, avanti tu. Sì, anch'io ho collegato tutto. Sì, Bacchis, io lo so. Ok, riprendete la Bacchis. Bacchis, non ho capito bene, ti chiedo scusa, ma non c'ho il QRM. C'ho un QRM, sembra che capi, qualche macchina è fuori il cancello, capito? Non ti ho capito, cosa hai detto tu? Veramente non l'ho capito neanche io cosa hai detto. Cosa hai detto, Bacchis? Mari, ti ha detto che l'operaio tuo si è fatto festa. Ora non sai, ma mi ha fregato ieri, Bacchis, mi ha fregato proprio, Mi ha fregato. Oggi no, perché oggi c'era proprio... Sono morta una zia in paese, vabbè, dove accompagnava la madre. Ma ieri mi ha fregato. Mi ha fregato perché mi ha detto che non facevo ieri, invece ieri qualcuno mi ha detto che era in zona. Solo come mi ha chiamato, ho sentito la voce. Questo è la voce di uno che aveva dovuto che picchiare in più, capito? Però in poche parole. Lui non mi ha detto, non ho detto che stava su un paese, invece io con la voce l'ho mai immaginato, perché ho preso lì con la compagna, e la compagna stava anche mai detto, no, era... Ma non l'ho sceso ieri, l'ho sceso oggi con la madre, compagna la madre, dunque l'ho fregato, capito? E guarda, se non viene domani sera ha finito, come ha finito, a me poco mi piace, perché c'è anche un parente, anche se è un parente, doveva venire ieri sera e oggi scendeva giù a fare cosa, scusa. Se uno non vuole lavorare, se uno non ha gallo è un discorso, tutto qui. Siccome lui è costretto dalla compagna, la compagna lavora al comune, capito? Lavora vicino a me, lavora la compagna, dunque lui è costretto e se ne sbatte. Avanti, giornalista. Ok, vai, io ne approfitto, sì, vai. E sono già le 8, per cui mi approfitto. Ciao, Bacchis, allora ci sentiamo, sono in casa. A domani, se coincide. Ciao, Maria. Alle prossime. Complimenti, sono in casa anche te. Ciao, riprendi tu, dai. Ti ascolto per il finale e dopo chiudo, vai. Ciao, a resterci, ci saluto anche a te in casa. Ciao. Ok, ciao Gianmarino, ci sentiamo alle prossime. Beh, ne approfitto anch'io, vado mezzo a Ciamelli. Ci sentiamo alle prossime, ciao Bacchisio, ciao Marino, alle prossime. Riprende la Bacchisio. Ciao, domani, grazie di saluti, sono tu in casa, anche tu, ciao, anche Tore, ciao, tu, la signora. Ma chi, se tu vuoi, ci sentiamo domani, guarda, poi ti porto quei bastoni e così via. Già, devo fare due connessioni, però poi, quando torno in casa, ti chiamo, già ci vediamo domani mattina. Bene, anch'io faccio cuore di sono tutti gli ascoltoni e cuore di per me. Avanti, ma chi? Ciao, va qui tutto ricambiato, ciao.